dire che siamo fabbricatori di notizie false nel paese è un'offesa al nostro lavoro, ma per di più con uno scopo truffaldino, quello di far mantenere il potere a chi lo detiene, una diffamazione nella diffamazione, e noi abbiamo deciso di querelare per diffamazione il garante del movimento, cioè Beppe Grillo, cioè l'autore di questo testo. We must call upon our bright darkness. Penso che la frase di ieri sia grave, penso che il concetto anche solo di avere una giudicheria popolare che come dire, sta nella sparata in sé, non si sa sulla base di cosa giudica, se va a maggioranza, se è un po' come il milionario, schiacciamo se sì o se no, se ci piace o non ci piace, è di per sé assurda e forse anche un po' preoccupante. Eccoci qua, buonasera a tutti ascoltatori, ben ritrovati, buonasera da Alessio Maurizi, ma anche da Miriam Lucchetti, Matteo Ramelli, Claudia Schiattone in redazione e Pietro Lacorte in regia. 800 24 00 24, anche questa sera per qualche sera al posto di Giuseppe Cruciani, David Parenzo, che sono in vacanza, rientreranno lunedì prossimo. 800 24 00 24, da che parte state? Dalla parte di Mentana, il giornalista, rappresentante del giornalismo tradizionale, o dalla parte di Beppe Grillo, il paladino del web. Beppe Grillo, il comico che coi suoi paradossi ci ha fatto ridere per tanto tempo, poi ha cambiato sostanzialmente il modo di fare politica in Italia. Dall'altra parte Enrico Mentana, un giornalista che con la sua capacità, sensibilità, equidistanza da tante tematiche è diventato, sì, un punto di riferimento solido dopo tante generazioni per un sacco di gente. È difficile scegliere, io personalmente non riesco a scegliere, perché è come scegliere tra l'olio e il vino, ci vogliono tutte e due, non se ne può fare a meno. E voi invece da che parte state, cari ascoltatori? 800 24 00 24. Sentiamo ancora Mentana. E Beppe Grillo può venire direttamente o mandare dei suoi emissari nella nostra videoteca, che è a sua disposizione. Se troverà qualcosa che suffraghi questa tesi, vincerà la causa. Se no, il ricavato di quanto eventualmente il giudice disporrà in sede civile andrà a favore delle popolazioni terremotate del centro d'Italia. Qua Mentana è indubbiamente abbastanza piacione, perché ci ha messo in mezzo i terremotati. Comunque, questo è quello che è andato in onda ieri sera. Una cosa buona c'è in tutto questo, che si riapre una discussione sul ruolo dell'informazione, delle notizie, che sono importanti sempre di più. I social media, il web ci danno maggiori strumenti, potenziano tutta questa informazione, però bisogna imparare ad utilizzarla, a manovrarla, a distinguerla. Una cosa certa c'è anche, ed è questa: i giornalisti tradizionali, quelli della carta stampata, probabilmente anche delle televisioni, forse anche Mentana, insomma in tanti della vecchia guardia, devono fare un bagno di umiltà. Sicuramente non basta più scrivere qualcosa, fare un editoriale e poi chiudere. Adesso ci sono i commenti, gli aggiornamenti, i lettori che ti saltano addosso se sbagli, se dici qualcosa di non corretto. È un fatto anche positivo, perché tu puoi correggere, migliorare qualunque cosa che è stata scritta in tempo reale, in pochi secondi. Un'altra cosa certa è che il web potenzia, come dicevamo, tutto, e quindi anche le bufale, non bisogna sottovalutarle. Due sono le proposte in campo: quella di un'autorità europea, un'autorità di governo, che però qualcuno dice è una censura di governo, che possa verificare se ci sono delle bufale sul web, eccetera. L'altra è quella appunto di Beppe Grillo, anche qua vi chiedo da che parte state, una sorta di giuria popolare, che però qualcuno non piace perché sa di tribunale popolare, sa di populismo. Allora, mentre decidiamo in quale direzione andare, stiamo però delegando tutto, questo va detto, a chi? A Facebook, perché per ora sono loro, con i loro algoritmi, Google, Facebook, che decidono tutto quello che leggiamo e vediamo. Va bene così? 800 24 00 24. Intanto però, e fa ridere, la prima bufala del 2017 di chi è? È proprio di Beppe Grillo. Sentite Pizzarotti. il blog di Grillo è il primo che distorce spesso le notizie. Se voi guardate la notizia del più bel capodanno del mondo a Roma, questo capodanno con foto dell'anno scorso, piuttosto che, insomma, è evidente che le notizie in Italia da qualsiasi parte sono sempre distorte in un qualche modo da una parte o dall'altra per cercare di dare ragione a questo o a quello o a vendere di più. Allora, la notizia qual è? Questa: qualcuno si è accorto che nel suo profilo Facebook proprio Beppe Grillo ha scritto il primo di gennaio: l'anno inizia alla grande, a chi sperava nel flop della festa fate leggere questo articolo, è stata la festa dei cittadini e dei turisti, quella che i soliti musoni hanno voluto ignorare, con foto di per metà Virginia Raggi e per l'altra metà una porzione di Colosseo in notturna con fuochi d'artificio. Roma, la festa di Roma riuscita nonostante i gufi che ce l'hanno col Movimento 5 Stelle. Peccato che quella foto fosse riferita a un altro capodanno, perché quella la sera del 31 dicembre 2016 di fuochi d'artificio a Roma non ci sono stati, e quella foto si riferiva, come è stato dimostrato poche ore più tardi da qualcuno attento sul web, era una foto del capodanno della giunta Marino. Vabbè, una cosa da poco, sicuramente una cosa piccola, ci sono sicuramente bufale, depistaggi e verità taroccate più gravi sicuramente di questa, però caro Beppe Grillo, se vuoi fare il paladino degli onesti devi stare attento, è inevitabile, altrimenti non sei credibile. Però nel frattempo, amici di Roma, toglieteci voi ogni dubbio, com'è stato il capodanno a Roma? Bello, come dice la Raggi, con gente per strada, feste nonostante l'assenza di Botti, oppure moscetto, come invece ha detto qualcun altro? Chiamateci 800 24 0024. Andiamo a Napoli, sentite questo invito che viene da Maradona. Cari napoletani, parla Diego, ci vediamo al Teatro San Carlo il 16 gennaio per dimostrare tutto l'amore che voi mi avete dato e che lo tengo dentro del mio cuore. Succede che Diego Armando Maradona viene invitato al Teatro San Carlo a celebrare l'anniversario dello scudetto l'anno dell'anniversario dello scudetto del Napoli, e qualcuno dice: può uno come Maradona, un grandissimo campione sportivo, ma certo una persona non dallo stile di vita inoppugnabile, impeccabile, che ha avuto guai col fisco, con la droga eccetera eccetera, entrare nel tempio sacro, luogo simbolico della cultura napoletana come il Teatro San Carlo? Secondo il sindaco di Napoli De Magistris, naturalmente sì. Maradona per la città di Napoli è stato un genio del calcio, un artista del calcio. Maradona e meglio Pelé si cantava, e siccome io ho una concezione del teatro non solo dell'elite della musica, dell'aristocrazia, dell'eccellenza, ma deve essere anche un teatro del popolo, e Maradona è nel sentimento diffuso del popolo napoletano, e oserei dire non solo napoletano. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Power to the people. Power to the people. Power to the people. Power to the people. Power to the people. Power to the people. Right on. Con noi Maurizio Buccarella, senatore del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Giustizia. Buonasera, buon anno anche. Buonasera e buon anno a tutti. Benvenuto. Allora, approvato il nuovo codice etico, era ora anche nel Movimento 5 Stelle, come anche in altri partiti. Adesso c'è un sistema di regole certe, cosa succede se un politico è indagato, è condannato, eccetera. Potere al popolo o al garante, anche Buccarella, perché qualcuno dice che con questo codice etico ci sarà molto potere al garante, cioè a Beppe Grillo. Però andiamo per ordine. Qualcuno dice anche svolta garantista, cioè avete un po' cambiato rispetto al passato. Adesso essere indagati non basta per essere sospesi dal Movimento 5 Stelle. È cambiato qualcosa o no? No, non è cambiato niente. Quella che viene fatta passare come una svolta, un dietrofront, un'inversione a U, in realtà è una situazione di fatto che già il Movimento osservava, cioè addirittura anche codificata nel codice per i parlamentari all'atto della candidatura, quindi parliamo del 2012, rinvio a giudizio addirittura, quindi non la mera iscrizione nel registro degli indagati, era una circostanza nel 2012 in virtù della quale, ad esempio, ogni parlamentare aveva la facoltà di dimettersi o meno, a differenza della condanna di primo grado che comporta l'impegno morale di rinunciare all'incarico, di dimettersi nelle varie situazioni. Quindi non è vero, ed è però, diciamolo anche, visto che va di moda, è un po' una bufala. È un po' una bufala, questo l'ha detto anche io. Mi faccia però fare una controobiezione, che è questa. Allora, in effetti, però, in passato, adesso le faccio sentire anche un audio di Pizzarotti, anche se Pizzarotti adesso è fuori al Movimento, quindi non potrebbe dice quello che vuole. Però voi del Movimento 5 Stelle chiedeste, per esempio, inizio anno, un anno fa esatto, al sindaco di Fiumicino del PD, Montino, di dimettersi perché è indagato, no? E questo è storia, insomma. Faccio sentire anche Pizzarotti e poi le chiedo di commentare questa che lei dice non è una svolta, però... Allora, o non facciano più dichiarazioni in generale, o se le fanno poi devono rendersi conto e ricordarsele come le ricordano agli altri. Prima dire chiunque è indagato dovrà dimettersi, adesso all'improvviso invece siamo accorti che no. Forse bisogna riflettere prima di parlare. Cioè, molti indagati avete chiesto di dimettersi, compreso tra l'altro stesso Pizzarotti, poi assolto. Sì, allora, ribadiamo una cosa che già qualcuno prima di noi sosteneva, che della necessità di distinguere una responsabilità giudiziaria dalla responsabilità morale, dovendo quest'ultima, con riferimento a persone che rappresentano le istituzioni, farsi carico di un obbligo costituzionale previsto dall'articolo 54, assolvere il proprio impegno istituzionale dal Comune alla Regione, al Parlamento, al loro Parlamento, con dignità e onestà. Dignità e onore. Allora, quindi di cosa stiamo parlando? Noi stiamo dicendo che il rinvio a giudizio di per sé non è una causa, ma l'abbiamo sempre applicato questo criterio. Diverso è il caso di un avviso di garanzia che si accompagna, ad esempio, come tante volte accade, con trascrizione di intercettazioni telefoniche dalle quali si può rilevare una responsabilità oggettiva dal punto di vista morale, fermo restando il diritto sacrosanto di doversi difendere nel processo. Insomma, è la metafora che spesso da Vigo, se non sbaglio, ha richiamato: se uno viene a casa mia e mi ruba le posate, in attesa della sua sentenza di possibile condanna, io non lo invito più. Allora, una misura, no, ma questo è chiaro, però è innegabile che in passato avete, nel caso che io citavo di Fiumicino, si trattava, se non ricordo male, di indagati, non di persone rinviati a giudizio. Non ho ben presente adesso, se non sbaglio si parlava di abusi edilizi, ampliamenti non leggibili. Esatto, il reato era abuso d'ufficio in quel caso. Erano interessate diverse, sì, non solo il sindaco, ma buona parte della compagine che amministra il Comune di Fiumicino, adesso non ricordo. Vabbè, comunque abbiamo chiarito, insomma, voi dite non c'è nessuna svolta garantista, qualcuno invece vede un cambiamento, ma tant'è. Mi fa però un esempio di, perché si dice reati commessi con dolo, condanna per reati commessi con dolo porteranno alla sospensione. Mi fa invece un esempio, lei avvocato, di un reato commesso non con dolo, che quindi non implicherebbe una sospensione? Ma sì, sono evidentemente i reati colposi, no? Cioè dove l'elemento psicologico, adesso non voglio essere troppo tecnico, ma dove non c'è la previsione e la volontà dell'evento dannoso, ma solamente il non aver osservato norme di prudenza, di diligenza, norme di legge che hanno fatto sì che quell'evento si accadesse. L'esempio classico è: ho sul mio balcone un vaso che l'ho posto erroneamente in maniera non sicura, questo vaso cade giù, rompo la testa a qualcuno che magari rimane ferito o addirittura muore, e mi trovo a essere indagato di omicidio colposo o di lesioni personali colpose. Quindi non doloso ma colposo. In questo caso non scatta nessuna sospensione. Io non volevo rompere la testa del signore, ma ho la colpa, diciamo così, di aver messo un oppure nel caso di sinistri stradali è il caso più frequente. Chiaro, no? Di lesioni personali o di omicidio stradale causato per colpa, non per la volontà di creare. Quindi un'altra cosa, sembra ragionevole questa distinzione. No, va bene, ma poi l'importante è che siano chiari i termini, in modo che poi ognuno possa giudicare, assolutamente. L'altra cosa che le volevo chiedere, 40.000 votanti per questo codice etico, sono pochini, non sono tanti. Sì, ho letto qualche titolo, ma insomma io capisco che bisogna pur trovare degli argomenti, degli appigli, degli appigli. No, detto poponi, che siete gli unici che fanno votare tutti tutto ogni volta, e questo sicuramente dal mio punto di vista è un fatto positivo, però 40.000 non sono tanti, avete milioni di votanti e forse di iscritti, però 40.000 non sono molti. Sì, iscritti al sito del Movimento 5 Stelle dovrebbe essere di poco superiore ai 100.000, sì. Quindi 40.000 sono una percentuale rilevante, comunque in linea con tutte le altre votazioni che stiamo facendo già da qualche settimana, e posso anche preannunciare che in futuro ce ne saranno ancora di più, quando probabilmente costruiremo il programma a 360 gradi delle varie materie, dovendo cercare di assumerci questa responsabilità, se ci toccherà, se gli italiani ce lo consentiranno, di andare al governo. Okay. Quindi 40.000 possono sembrare pochi, al momento è il sistema migliore che noi, Casaleggio, quello siamo riusciti a creare, non utilizzando un euro di Lei potrebbe anche dire giustamente: noi abbiamo, secondo qualcuno, pochi 40.000, gli altri non hanno neanche che 40.000, e questo è un punto a vostro favore, sicuramente. È un numero in linea con le ultime votazioni fatte anche in tema di energia. Sorvolo la questione del tempismo, no? Qualcuno dice questa è una cosa fatta per salvare la Raggi. Sorvolo questa cosa, perché se fosse arrivato in un altro momento ci sarebbe stato un altro a salvare, non mi sembra una critica spendibile. Invece la questione, e le faccio risentire anche in questo caso, Pizzarotti, è troppo potere al garante, cioè il ricorso si fa al sito, al gestore del sito. Può un movimento politico concedere così tanto importanza a un gestore privato come è Casaleggio di un sito? Le faccio sentire Pizzarotti. Voi ditemi qual è quell'entità legale riconosciuta da tutti gli attivisti, gli eletti, gente che ci mette la faccia, gente che ci mette veramente il cuore, il gestore del sito. Noi nel 2009 saremmo inorriditi a parole come capo politico garante, ma gestore del sito penso che sia veramente uno dei punti più bassi. Prima sarebbe scritto Casaleggio Associati, adesso, visto che poi dopo sembra veramente nepotismo, allora è il gestore del sito. Sareste inorriditi nel 2009 parlando in questi termini? Ma probabilmente immagino di no. Io non voglio alimentare le polemiche con il sindaco Pizzarotti, però francamente mi sembra, come dire, una critica. Ognuno la può pensare come vuole. Qui non si tratta di un indirizzo, di un link al quale inviare una mail. No? Parla della segnalazione di avvisi di garanzia che un eletto del Movimento 5 Stelle dovrebbe inviare al sito. Allora, sì, però la critica è questa, gliela rifaccio in altre parole se non vuole rispondere a Pizzarotti e entrare in polemica. È un ente privato, sì, il sito di Casaleggio, su cui i militanti non hanno, credo, nessun controllo diretto. Si può affidare a un ente esterno il controllo di un partito? A me verrebbe da dire, magari ci fosse un'istituzione pubblica e non privata che funzionasse veramente terza e veramente indipendente dal sistema dei partiti, a cui poter inviare questo tipo di segnalazioni. Cioè, insomma, i partiti e il nostro movimento politico si muovono nei limiti della Costituzione, dell'articolo 49, rimasto in parte inapplicato, e noi stiamo sperimentando con il rischio anche di sbagliare. Cioè lei dice facciamo quello che possiamo, noi meglio che possiamo, e questo siamo, quindi giudicateci per quello che siamo. Però scusi, un'altra domanda, però entrando ancora di più nel merito, perché abbiamo chiarito il ruolo del sito. Il codice etico prevede che a decidere poi in autonomia siano il garante, cioè Beppe Grillo, e poi i probiviri e il comitato d'appello. Chi sarebbero queste persone? Sono esponenti? Il garante è Grillo. Il garante è ed è sempre stato e non c'è Grillo. E dovendo rispondere alla domanda fatta da Pizzarotti, se io scrivo al sito, al gestore, chiamiamolo come vogliamo, io posso assumere di parlare con Beppe Grillo. Ma questo l'abbiamo chiesto io. Chi sono i Probiviri invece? Il collegio dei Probiviri è un collegio composto da tre persone, sono tre parlamentari, due deputati e una senatrice, che sono stati votati in approvazione sul sito del Movimento 5 Stelle, composto da queste tre persone, scelte evidentemente dallo stesso garante, perché voglio dire, mi sembra anche naturale che se il garante e noi abbiamo fiducia, se si vuole avere fiducia nel garante è giusto avere fiducia in lui. Però ecco, un conto è avere fiducia nel garante Buccarella, un conto è dire si poteva forse affidare a autorità esterne o a personalità indipendenti esterne la valutazione sull'applicazione poi di un codice etico che è stato scritto dal garante, cioè solo l'applicazione. Non si rischia che ci sia troppa discrezionalità da parte anche di questi esponenti, che sono sempre esponenti interni? Compreso l'obiezione, potremmo ipotizzare anche altre formule diverse che magari potranno essere adottate da qui ai tre anni che sarà la durata di incarica dei miei colleghi che sono Probiviri. Però occorre anche rendersi conto della nostra situazione, perché io le assicuro che trovarsi un po' nel mirino a 360 gradi nel sistema politico, ed è normale che sia a noi avverso perché noi gli vogliamo smontare il giocattolo, ma soprattutto a un sistema mediatico, e qui forse entreremo nell'altro punto su cui non so, vorremmo parlare un po', la tematica delle cosiddette giurie popolari sulle bufale del sistema informativo. Io capisco pure che si debbano adottare delle misure di tutela, nel senso di dare al proprio interno quei giudizi discrezionali che peraltro, per quanto riguarda l'altro grande partito italiano, il Partito Democratico, per inciso nel suo statuto in materia, neanche lì ci si rivolge a organismi esterni o a soggetti esterni, ma anche lì sono i referenti territoriali, sono sempre gli uomini del partito. Ha chiarito. Critica che andava mossa già 7-8 anni fa al Partito Democratico, che adotta un metodo simile. Voglio fare un'altra domanda, però. Lei è stato autore anche di un controverso emendamento sul reato di clandestinità, a parte quello che è acqua passata. Oggi sul tema dell'immigrazione, il caso di Cona, provincia di Venezia, la rivolta degli immigrati, una ragazza che è morta, eccetera. Allora, a questo punto è abbastanza chiaro il fallimento degli ultimi governi, Letta, Renzi, Monti, ma anche Berlusconi e Maroni, mettiamoci dentro come ministro dell'interno, sulla gestione dell'accoglienza in questa modalità. Bacchetta magica, domani voi siete al governo, cambia tutto, cosa fate di diverso rispetto a quello che è stato fatto fino ad ora nella gestione dell'immigrazione? Sì, guardi, devo dire, io ho il computer davanti, l'ultimo post pubblicato sul blog di Grillo è proprio questo, le parole sono quelle che ho usato lei, un fallimento annunciato, cioè le politiche di gestione dell'immigrazione nel nostro paese da qualche lustro hanno dimostrato tutti i loro limiti, cioè l'apparato elefantiaco e poco funzionante delle commissioni che devono valutare la titolarità del diritto per i richiedenti asilo, il sistema delle cooperative, su cui non aggiungo parole insomma, perché si è già detto tutto, no? Sono diventate occasioni, come mi pare che anche a Cona ci sia il rischio che dietro questo numero è però guardi Buccarella, se ci saranno le elezioni la gente poi immaginerà che ci siano delle proposte da parte vostra, non solo la critica giustamente di quello che certo che sì, e in quel post che ciascuno può andare a leggere, l'ultimo pubblicato, ci sono appunto anche delle proposte, cioè la prima cosa è assumere come nazione una credibilità in ambito internazionale, che è la condizione prima, credo, per poter da un lato stipulare accordi bilaterali con i paesi terzi in ambito europeo, avere la forza diplomatica e politica di imporre un criterio ripartitorio degli aventi diritto dei richiedenti asilo, che ad oggi non è rispettato, ma farlo veramente, quindi sempre in un'ottica che non debba essere né nel cadere della paura o della pericolosa equazione immigrato uguale terrorista, che non ci piace affatto, ma è anche però facendo i conti con i limiti oggettivi che un paese come l'Italia in questo ciclo economico possa garantire per accogliere. Certamente tutti quelli che hanno diritto ad essere accolti devono essere accolti e trattati in maniera umana e dignitosa in Italia, però va bene. Che si debba anche trovare il modo di poter procedere all'espulsione di immigrati che non ne hanno diritto. Devo chiudere, questa grazie è... Buccarella, buona serata, auguri ancora. Alla borsa, 800 24 00 24, a dopo. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio. La storia vera dell'uomo che ha fondato un impero su un hamburger. Dovrebbero esserci McDonald's ovunque. Affiliazione commerciale. Signor Croc. Affiliazione, affiliazione, affiliazione. Michael Keaton. Il McDonald's sarà la nuova chiesa americana. E poi non è aperto solo di domenica. The Founder. Dal 12 gennaio al cinema. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Siete dei macachi stupidi. No, no, siete dei macachi di Lutubiano, di francese. Il proprietario dello stadio di Lucelice è il comune di Lucelice. Siete dei macachi tutti. Ok, quindi aspetta. Io posso darvi la residenza di una cosa che non è mia? 800 24 0024, ben ritrovati, buonasera da Alessio Maurizio. Avete sentito, questa era la responsabile del centro ecofficina di Cona, provincia di Venezia, dove c'è stata poi la rivolta degli immigrati. Lei così si rivolgeva a un video che è stato girato da uno degli ospiti del centro, poi è stato acquisito anche agli atti dell'indagine, perché quel centro, su quel centro ci sono, c'è un'inchiesta per appalti regolari e per maltrattamenti. Siete dei macachi, cercava di spiegare le regole di accoglienza, come funziona il centro, e diceva e usava questa espressione, le regole di questo centro, che lo ricordiamo è sotto accusa dalla procura di Venezia. Erano loro che non capivano come funziona l'accoglienza, o era il centro che non funzionava bene? In ogni caso, voi amici veneti, che significato ha dare dei macachi? Perché qualcuno ci ha letto un insulto razziale, un insulto? No, è solo un modo così di dileggiare, di un appellativo anche bonario. Allora, chiamateci, noi siamo qua, 800 24 00 24, cominciamo con Giorgio da Roma, buonasera, benvenuto. Buonasera a lei, mi scusi, una piccola parentesi iniziale, sentivo l'interlocutore che parlava di un eventuale blog statale al posto di quello di Grillo, avevo la sensazione di un vincul pop, veramente. Comunque, quello che volevo dire è un'altra cosa. Un paio di mesi fa... Buccarella diceva, tra l'altro lasciando uno spazio a un... come dire, ammettendo che la soluzione adottata dal Movimento 5 Stelle non è la migliore possibile, diceva magari ci fosse un'autorità pubblica che controlla l'irregolarità dei politici. Che, ripeto, è una particolare, strana, originale ammissione da parte di un esponente del Movimento 5 Stelle nel momento in cui è stato appena approvato un codice etico che prevede una cosa diversa. Comunque... Sì, sono d'accordo con lei. Forse volevo solo dire che un paio di mesi fa, io non seguo il Bob Grillo, non sono molto tecnico sul computer. Due mesi fa un mio amico, che invece è molto appassionato al blog, mi vide e mi disse: hai visto, il governo, la finanziaria ha messo un finanziamento di 87 milioni per il golf, per la Ryder Cup. Dico sì, dopo 100 anni la prima volta viene in Italia. Comunque non ci credo che sia così. Nelle mie poche nozioni ho scritto finanziaria golf e ho letto che c'era un articolo che poi tra l'altro è stato cancellato, che garantiva era una garanzia, non era un finanziamento, per la Ryder Cup del 22, e il Bob diceva ha dato 40 milioni per i terremotati e 87 milioni al Covid. Vabbè, è difficile è seguire questo ragionamento, però è Giorgio, è un po' complesso, però insomma lei sta enunciando una di quelle tante notizie che vengono diffuse sul sito di Beppe Grillo, come diceva anche Pizzarotti, a volte sono dei paradossi, a volte però sono delle, qualcuno dice, delle vere e proprie bufale, in questo caso è quello che diceva lei, oppure come nel caso del Capodanno, lì si è trattato di una gaffe forse fatta da Beppe Grillo, da chi per lui ha fatto quel post, nel quale si era messa la foto del Capodanno del 2015, non del 2016, vabbè, ma comunque. Allora, da WhatsApp 3492386666, con chi state? Con Grillo o con Mentana? In Toscana si dice, chiama Alessandro da Pistoia, si dice che Cencio parla male di Straccio, cioè non va bene nessuno dei due. Poi c'è chi invece dice tutta la vita con Mentana, la 7 è certo la TV più equidistante da tutte le forze politiche, e via via andate schierandovi o con l'uno o con l'altro. Raccoglie forse più, dopo l'intervista con Buccarella che si arrampica sugli specchi, dicono alcuni ascoltatori, vedo in leggero vantaggio Mentana su Grillo. Io ho detto che non si può scegliere, perché è come scegliere tra l'olio e il vino, sono due elementi indispensabili. Come si fa? Uno ha cambiato il modo di fare politica in Italia, l'altro è un punto di riferimento dell'informazione da 30 anni, è sempre lì e gode della stima di moltissimi di noi, quindi come fai a rinunciare a Mentana o a Grillo? Maurizio da Modena. Sì, buonasera. Prego. Buonasera. No, volevo intervenire sulla diatriba Grillo-Mentana. Sì. Cioè, sicuramente con Mentana, ma per un motivo molto semplice. Mentana è sempre stato un giornalista che è stato al di sopra delle parti. Anzi, molte volte fosse schierato con il nuovo, quindi col Movimento 5 Stelle. Quindi se prende posizione, un motivo sicuramente c'è. Però volevo chiedervi anche una cosa, voi che potete fare alcune domande ai rappresentanti di 5 Stelle. Sì. Io sono un imprenditore di Modena, di una certa età anche. Ho fatto anche politica negli anni 90, quindi nella Prima Repubblica, a certi livelli. Ma com'è possibile che improvvisamente tutto quello che doveva essere trasparente, streaming, incontri e quant'altro, sia stato non più presentato nella rete? Va bene Maurizio, questa domanda la giriamo nell'etere agli altri ascoltatori e sentiamo che cosa ne pensano. All'800 24 0024, Patrizia da Roma. Sì, buonasera. Buonasera. Volevo esprimere la mia opinione. Innanzitutto ci premetto che le ultime elezioni ho dato fiducia alla Raggi, ma me ne sto pentendo perché è una delusione completa. E poi allargando il discorso, anche perché girando per Roma dal centro alle periferie, vi faccio un piccolo esempio ancora. Dal guazzabuglio dei festeggiamenti della notte, sì. ancora cosa? Non si è fatta pulizia. Roma è abbandonata. Cioè, no, oggi che è il 4 gennaio non è passata la nettezza urbana a pulire Roma dopo il Capodanno? Assolutamente. Ma dove? In che quartiere? Ma in tutte le periferie, grande. Perché le ha girate tutte, Patrizia. Gli amici e altre famiglie che sono sparse, viviamo un po' in tutte le periferie, chi più o meno al centro. Ho capito. Comunque sicuramente la pulizia della città, la pulizia della città sarà la sfida più grossa quest'anno per quanto riguarda la Raggi a Roma. Com'è stato il Capodanno però a Roma? Lei è uscita o è rimasta a casa, immagino? No, ma il Capodanno è tutta, si parlava di bufala. No, ma com'è stato il Capodanno a Roma, le ho chiesto. Lei l'ha trascorso a Roma? Sì, ma no, in famiglia, per a carità. Casa, niente, quindi in non famiglia. Ne sa niente. Va bene, grazie Patrizia, buona serata. Francesco da Novara. Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Vai. Ma allora, io volevo intervenire non tanto sulla diatriba tra Mentana e Grillo e Movimento 5 Stelle, quanto sulla concettualità di quello che si è proposto in questi ultimi scorci sull'informazione in generale. Devo dire che l'ipotesi che ci sia un ente anche addirittura sovranazionale che verifichi l'attentibilità di ciò che viene scritto su internet, e dall'altra parte questa specie di populistico tribunale del popolo, tribunale giuria popolare del popolo, che fa la stessa cosa, sinceramente mi fa rabbrividire. Cioè, nell'uno nell'altro, lei dice nell'uno nell'altro. Ma certo. Anche però al momento stiamo lasciando tutto nelle mani di Google e Facebook, e decidono loro, va bene sono questo? Sono d'accordo, quindi è logico che bisogna trovare un'alternativa che secondo me consiste nel fare in modo che ci sia una maggiore trasparenza nel chi emette queste dichiarazioni nei blog, e quindi eliminare i nickname, fare in modo che ci sia trasparenza, in modo che venga portata alla luce la responsabilità personale, che è quella che secondo me fa testo. Poi, se mi concede ancora un attimo di tempo, ho trovato assolutamente ridicolo l'intervento di quel deputato del Movimento 5 Stelle. Io cerco di mantenere una certa cerco di mantenermi un po' più controllato, perché sinceramente spesso il Movimento 5 Stelle mi fa andare sangue alla testa. Ma però, dov'è che l'ha trovato incompleto, allora, incongruente? Quando lei gli ha posto la domanda della differenza di comportamento, che è più che evidente, ma a meno che no, il Movimento 5 Stelle non voglia mettere in discussione le notizie che sono state pubblicate ai mezzi di informazione su quanto è successo a Pizzarotti, al quale è stato immediatamente chiesto di dare le dimissioni, a quello che poi è successo invece con la Raggi e con la sua giunta. Dove la Raggi c'era che però non è ancora indagata assolutamente, no, anche se potrebbe arrivare. Però, sì. Però non dimentichiamo la Muraro, che invece lo era, si è perso la mail in cui veniva dichiarato che aveva ricevuto l'avviso di garanzia, sì. Poi si è aspettato parecchio, non le è stato chiesto di uscire dal Movimento 5 Stelle, quando poi definitivamente è stato più che chiaro e lampante che era stata rimandata a giudizio, allora poi ha dato le dimissioni. Quindi, vabbè, comunque, ecco, io l'ho visto glissare. Ha glissato, Francesco, perché che ci sia stato un cambiamento mi sembra indubbio nel Movimento 5 Stelle, che poi sia una svolta, una retromarcia, una svolta garantista, come qualcuno dice, questo ognuno può giudicarlo. Un cambiamento c'è sicuramente stato. In passato si chiedevano le dimissioni a politici indagati, adesso si dice bisogna vedere di che tipo di indagine si tratta, può non bastare, ci vuole la condanna. E adesso però quantomeno c'è, meglio tardi che mai, un codice etico, ci sono delle regole sicure. Questo però dobbiamo prenderlo come un fatto, io credo, positivo per tutti i cittadini, per gli elettori di un partito o dell'altro. Ci sono regole chiare, certezza, c'è meno discrezionalità e meno spazio per gli illeciti. 800 24 00 24, traffico tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I'm a scat man. I'm a scat man. Beh, l'avete riconosciuta sicuramente, quelli che di voi hanno visto al cinema o hanno visto anche solo i trailer ossessivi dei cinepanettoni in televisione, cinepanettoni natalizi che sembra siano sull'orlo del collasso, sono andati male quest'anno, pochi spettatori al cinema per questi film. Vabbè, ma la notizia è questa. Allora, gli eccessi della movida dopo l'estate si trasferiscono, abbiamo scoperto recentemente, in montagna, con eccessi di tutti i tipi, anche alcolici. Il sindaco di Livigno corre ai ripari e, proprio per evitare questi eccessi, a parte i turisti stranieri spesso che bevono molto, turisti dell'est, ha detto stop agli alcolici alla aperto, e noi l'abbiamo convocato Damiano Bormolini, buonasera, benvenuto. Buonasera. E intanto, per fare un po' di chiarezza, cosa prevede esattamente questa ordinanza che lei ha emesso, che è andata su tutti i giornali, perché come sempre quando c'è un divieto si dice vabbè, ma che esagerazione, eccetera. Sì, è un po' una novità, ma in realtà è molto legata, appunto, come già anticipato, al discorso della movida che normalmente succede in città. Da noi succede in particolar modo d'inverno con gli apres-ski, sì. È diventata una moda. Come li hai definiti? Gli apres-ski. Apres-ski, cioè i dopo ski, ma non dopo nel senso sì, del dopo sì, dopo sci all'aperto. Ecco, sì, che sì, e si beve, in pratica si beve, fatta, si trinca. Esatto, si beve, si festeggia. Cosa è che va di più come alcolici? Dalla vodka alle grappe ai vari aperitivi, diciamo che la vodka è quella più conosciuta, e poi vabbè, fiumi di birra e quant'altro. Comunque vino niente, vino niente, cioè i nostri prodotti vino, locali no, niente. No, per quanto riguarda proprio questo tipo di turisti non vogliono, no, roba forte, roba strong. Ma sì, perché siete arrivati a questa ordinanza, insomma? Perché c'erano dei grossi problemi? Quali problemi avete con chi? Sì, perché... Magari, scusi, finisco, perché adesso relativizziamo. Uno fa una sciata, poi alle 6, 5, 6, quando tramonta, si mette, o anche prima, in un bar e all'aperto, e si fa una bevuta, si rilassa, siamo in vacanza. Ecco, normalmente fino a anni fa si beveva il bombardino, il vin brûlé, bevande calde, alcoliche ma calde, che di conseguenza non erano così diciamo portate all'eccesso, al bere in eccesso. Invece con i super alcolici che vengono usati oggi si promuove tanto proprio il super alcolico, dove in particolar modo i turisti che vengono dai paesi dell'est Europa, dalla Polonia, dall'Ungheria, Repubblica Ceca, Lettonia e questi paesi, diciamo che per loro è un po' anche un'abitudine avere questi superalcolici. Ma dove poi creano dei problemi, cioè diventa ingestibile, cioè cosa trova? Bottiglie rotte, risse, esatto. Che succede? Perché altrimenti, ripeto, è un'abitudine che ognuno, basta non mettersi al volante, uno beve, poi cammina dal rifugio all'albergo e buonanotte. Il problema è che poi è un lavoro da 118, diciamo che dalle 6 di sera fino alle 9, lavoro da 118, andare a recuperare tutte le persone ubriache. Che oltre al decoro urbano creano problemi proprio anche alla sicurezza, sulla viabilità, perché poi si avviano magari con sci e scarponi ancora ai piedi per le strade, creando anche pericolo. Però l'ha detto lei, no? Bisogna andare poi a recuperare gli ubriachi, ma mi domando, per far rispettare questa ordinanza come farete? Manderete dei vigili in giro la notte? Perché se uno è lì di notte a ubriacarsi, dovete aumentare i pattugliamenti. Come fate a far rispettare concretamente questa ordinanza? Non è che sia una trovata per così... No, abbiamo una polizia locale molto efficiente, e anche i carabinieri possono far rispettare questa ordinanza, che, premetto, l'ordinanza crea il divieto di bere sulle vie pubbliche, quindi uno non deve girare per le strade con la bottiglia o con il bicchiere, anche appunto per il decoro urbano. Quindi possono tranquillamente, se vedono uno che beve la birra per strada, può essere sanzionato, anche se non è... E che multa date? Quanto date di multa? Sono 150 euro di multa. Però, capperi, senta, ma non è che un'altra obiezione che si potrebbe fare a questa vostra diciamo ordinanza, che è una soluzione a un problema che evidentemente c'è, quindi non voglio dire che vada sottovalutato, però non è che volete spingere la gente a entrare nei locali, a consumare dentro i locali? Quindi diciamo è un'ordinanza non tanto per la sicurezza e per il decoro, quanto per fare guadagnare i commercianti locali, perché uno si potrebbe comprare la bottiglia al supermercato e poi bersela fuori. Non si può più fare questo. Esattamente un po' al contrario, perché possono tranquillamente comprarsi la bottiglia, però recarsi nei propri alloggi e poi lì possono decidere cosa fare. Non lo possono fare sulle vie pubbliche, perché poi fanno il gruppo e creano appunto questi disagi a chi invece in realtà viene per sciare, per riposare. Quindi, però diciamo, si va in montagna per sciare, per riposare, anche ma anche per rilassarsi, per divertirsi, esatto, un po', insomma. Non è che uno deve stare chiuso in camera se si vuole bere una birra, mi sembra un po'... L'obiettivo è... No, ma infatti, se uno si beve la birra non succede assolutamente niente. Purché non sia per strada. Purché non sia per strada. Non si vuole creare la condizione di appunto creare problemi. Poi la mattina ci troviamo bicchieri, bottiglie sulle strade, corpi stesi per strada. Vabbè, che con questo freddo devo dire che la sua ordinanza non è neanche tanto strana, perché uno poi dentro va prima o poi, anche se vuol bere qualcosa, quindi non è che e anche per la sicurezza, perché in questo momento siamo a meno 6, e ancora di più sono incentivati a bere super alcolici. Diciamo che se bevono la birra non creano problemi, se bevono il vin brulé, il bicchiere di vin brulé o i due bicchieri non succede niente, purtroppo succede quando ne abusano, e diciamo che l'ordinanza serve più che altro come deterrente. Va bene, caro sindaco, grazie per essere stato con noi, Damiano Bormolini, sindaco di Livigno. Agli ascoltatori chiedo se vi ha convinti con questa ricetta, questa ordinanza stop al consumo di alcolici all'aperto, e insomma quando beviamo non tanto responsabilmente, fate come vi pare, però cercate di non rompere le scatole agli altri, non mettetevi a guidare e non fate troppo casino, perché questo non va bene. 800 24 00 24 Sermoncino. Allora andiamo con Dino da Rovigo, vai Dino. Buonasera. Tra l'altro, visto che chiami da Rovigo, dal Veneto, esatto, ti voglio chiedere, macaco? Macaco è una parola che veniva usata ancora molti anni fa, penso che sia come un po' come somaro, asino, una cosa del genere, non ha nessun riferimento razzista che io sappia. Perfetto, beh, sì, è quello che si intuiva, però insomma, meglio sentirselo dire. Vai Dino. No, quello che volevo dire è che, secondo me, che non sono iscritto al Movimento 5 Stelle, così, però già da molti anni l'informazione, TV, giornali e quant'altro, è veramente pilotata, manipolata, in maniera vergognosa proprio, ecco. Potrei fare molti esempi. Ecco. Fanne uno, dai, prova a farne uno. Uno esempio, ipotesi. Allora, il discorso del Presidente della Repubblica di fine anno, sì, tra le varie cose, ha citato le 120 circa donne uccise dal femminicidio, no? Sì. Ok, è sacrosanto, però... Perché non ha detto magari i 5.000 migranti che muoiono in mare o i quasi 4.002 suicidi? 4.002? Suicidi, diciamo, gente che in Italia si uccide magari perché non ce la fa più. Cioè, la sì, cosa è pilotata. E... Ma non è che è pilotata, cioè, scusi, però la distinguiamo. Un conto è l'informazione... Provo a dire una cosa io, i media o i giornali, la radio, la TV che pilotano l'informazione. Un conto è che Mattarella, lui, che è l'origine della dichiarazione, della notizia, dica una cosa per l'altra, no? Questa è una sua libera scelta. No, non è che ha detto una notizia falsa, sì, però... Ha scelto di... È vero, va a mode, ogni anno c'è un tormentone, alla fine dell'anno il capo dello Stato dice ricordiamo quelli che... Quest'anno c'è il femminicidio, parliamo delle donne. L'anno scorso c'erano quelli che si suicidavano, diceva quello. Però non è depistaggio, pilotaggio, non so come dire. Allora mi spiego meglio. Sì. In questo giornale deve... pubblicare delle lettere al giornale, pubblica quelle che vuole lui, quelle che gli fa comodo. Un'intervista, questo, sì, fanno le interviste che gli fa comodo dire, cioè quindi sembra che la realtà sia quella, capito? Allora faccio un altro esempio. Sì, un altro sia poi. L'ultimo, sia per la Brexit, sia per il referendum in noi, sì, sia per Trump o la Clinton, se lei gira per le strade, va nei bar, va nei negozi, quello era sacrosanto che vinceva Trump. Sì. Che l'Inghilterra se ne andava, che vinceva il no al referendum. E invece tutti i media continuavano a dire, nel senso, allora, o sono stupidi quelli che fanno i sondaggi che prendono anche tanti soldi. Guardi, però, vedi che torniamo al solito. Anche lì, cioè, può darsi che ci sia stata sottovalutazione dei giornali, dei media, non hanno capito perché sono stupidi, può darsi, siamo stupidi. Però i sondaggisti che per lavoro fanno quello hanno sbagliato anche loro. Quindi evidentemente era un problema generale questa emergenza di voti che andavano da una parte anziché dall'altra. Non c'è manovra, capito? Anche in questo caso, secondo me, non c'è depistaggio. C'è che non si è capito quello che stava succedendo, forse. Non so se l'ho convinta, Dino, non credo. Leggo i quotidiani, sì, così. Al momento ce n'è quasi uno solo che dice un po' le cose pane e pane. Chi è? Lo sa, non c'è bisogno che lo dica. No, no, me lo dica, qual è? Il Fatto Quotidiano è l'unico che dice un po' pane e pane. Comunque, sì, c'è una cosa che è spudorata. In TV, bella Rai, non so. Per esempio, le dico l'ultima. Mi è stato detto da una persona proprio vicina, confermato, che Renzi, quando si spostava, adesso diciamo, si portava dietro una corriera due di comparse. Una corriera di comparse? Una o due di comparse. Se andava a visitare la corriera intende l'autobus? Un autobus. Sì. Si portava dietro una o due corriere di comparse. e quindi tutta strette di mani, sorrisi, bracci a bracci, cioè il personale vero dell'ospedale o del carcere o della scuola, a parte magari un erano tutti attori. Questa sarebbe una notizia bomba, grazie per avercela rivelata, la approfondiremo. Giornale Radio, a dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. È venuto a trovarci Domenico De Masi, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Auguri, siamo ancora auguri. Nella settimana, si deve auguri. Dire, si deve dire, si deve dire. Ascoltatori, certo. 800 24 00 24, tra poco riprendiamo con voi. Prima però mi faccia dire una cosa, De Masi ha un ascoltatore che su Twitter, Tartufo72, uno di quelli che usa questi pseudonimi, dice: la Corriera con le comparse al seguito di Renzi, e lei non dice nulla di queste sciocchezze? Si riferisce all'ascoltatore con cui abbiamo chiuso la puntata. L'ironia, caro Tartufo72, ho cercato di utilizzare l'ironia parlando di uno scoop incredibile, perché non abbiamo notizie di queste comparse che andavano in giro con Renzi in autobus e riempivano le sue apparizioni pubbliche. Però magari poi saremmo smentiti, chi lo sa. De Masi, 2 anni dalla morte di Pino Daniele, tra l'altro abbiamo voluto anche noi far sentire qualcosa di Pino Daniele. Manca molto ai napoletani? Certo, è una presenza enorme in una città che vive di musica e di canzoni. Ovviamente si tratta di un autore unico in questo periodo, in questa fase della storia della canzone napoletana, quindi venuto a meno, è un grandissimo voto. Che poi riusciva a dire tanto senza entrare nei dibattiti, senza ingolfare di dichiarazioni e di cose come fanno altri. Senta, però. Ma quando uno è un genio nel suo campo, perché deve immaginare. Bravo, altri non campi. Ha bisogno di sporcarsi le mani in altro modo. Partiamo però da una cosa di cronaca, brutta cronaca oggi: sparatoria in centro a Napoli, feriti 3 senegalesi, una bambina che passava di là colpita di striscio per caso. Sembra che il racket delle estorsioni avesse preso di mira questi 3 ambulanti. È possibile che succeda anche questo, che venga chiesto il pizzo ai venditori ambulanti che fanno, non credo che facciano grossi incassi, però evidentemente è così. È come per Facebook o per Google, cioè mettendo insieme tanti piccoli incassi da parte di tanti venditori ambulanti, il taglieggiatore finisce per fare un sacco di soldi. È naturalmente vergognoso che una città con una storia così splendida, con un clima così bello, con opere d'arte così straordinarie, posizionata al centro del Mediterraneo, cioè inizia l'anno e siamo di nuovo con la stessa cronaca. È una vergogna, è una vergogna. Per me, che mi sento insomma napoletano di cultura, è una vergogna. Senta, c'è un'altra questione molto più meno grave, insomma una polemica che però scalda sicuramente gli animi molto a Napoli, e riguarda Diego Armando Maradona. Abbiamo fatto sentire il suo invito, lo facciamo risentire, ce lo dovremmo avere il 16 gennaio credo al Teatro San Carlo, chiamato per celebrare l'anniversario dello scudetto del Napoli, nel tempio però della lirica, della cultura, un simbolo della cultura napoletana. Lui, che certo non è una persona che ha avuto una vita impeccabile, ha problemi col fisco, la droga, eccetera, eccetera. Sentiamo intanto l'invito, ce l'abbiamo, sì. Cari napoletani, parla Diego, ci vediamo al Teatro San Carlo il 16 gennaio per dimostrare tutto l'amore che voi mi avete dato e che lo tengo dentro del mio cuore. De Masi, che ne pensa? Che effetto le fa questa cosa che accadrà a Napoli? Ma io credo che Maradona, in tutto il tempo che è stato a Napoli, si tratta di qualche anno, quindi non di pochi giorni, non sia mai stato a vedere un'opera lirica al San Carlo. Questo credo che sia certo. Mi meraviglierei se ci fosse andato. quindi secondo me non sa neppure il San Carlo cos'è, sa che è una cosa altisonante, che è una cosa famosa, e quindi ci va. Sono i napoletani che non hanno capito il rapporto che ci deve essere sempre tra contenuto e contenitore. Maradona è un dio nel suo campo, ma nel suo campo, che è un campo sportivo. Come sarebbe, secondo me, abbastanza assurdo un'opera lirica fatta allo Stadio San Paolo, così mi sembra assurdo che si faccia questa a Maradona. Non giova neppure a Maradona. Chi se l'è inventata questa cosa, naturalmente, è sicuramente provinciale, che crede di essere originale. È come servire, che so, un piatto di spaghetti in un bidet o roba del genere, cioè decontestualizzare le cose, sono follie. Napoli c'ha posti bellissimi in cui si sarebbe potuto fare tutto questo con maggiore risalto e con maggiore coerenza. È possibile che serva per fare degli incassi con un evento molto ambito, biglietti altissimi? Incassi per il San Carlo. Per il San Carlo, sì. Che San Carlo ha un'antica che si dice in difficoltà però economiche. Ha un'antica tradizione, sì, consolidata di deficit, per cui d'altra parte l'opera lirica se non riesce mai ad autofinanziarsi. Appunto, quando però noi... potrebbe essere questa la... Cioè, siccome non riesce a autofinanziarsi con un evento, una tanto molto popolare, si tira su una valangata di soldi potrei suggerire tantissime altre cose per fare soldi. Il problema non è quello, la capacità è di fare soldi facendo le cose giuste al posto giusto. Ma ripeto, con questo non voglio assolutamente fare la spocchia dell'intellettuale che dice non c'entra niente Maradona al San Carlo, non c'entra niente neppure la ida allo stadio. C'è proprio una questione di contesto per un tipo di avvenimento. Però c'è anche un messaggio, no, che si dà in questo caso, mettendo Maradona all'interno di un tempio in qualche modo della cultura napoletana. Non si dà anche un messaggio in qualche modo, cioè si sta istituzionalizzando, no? Cioè uno che ha successo può fare tutto il contrario di tutto, perché dal punto di vista sportivo nessuno può contestare Maradona, un grandissimo, forse il più grande campione di tutti i tempi, ed è giusto ammirarlo e idolatrarlo anche, direi, quasi. Farne un esempio di altre cose, forse... Ma lei metterebbe Placido Domingo a giocare nella nazionale nel giorno del suo compleanno? Non so come se la cava, di destra o di sinistra. Appunto, ma sono cose che non servono a nessuno, sono soltanto... dimostrazioni di provincialismo di una città che tutto ha da fare tranne che essere provinciale, perché le resta solo il blasone di essere un'antica capitale. Ecco, e De Magistris, che invece dice, glielo faccio sentire anche in questo caso, che dice no, certo, Maradona è un grande simbolo e quindi ben venga, sentiamolo. Maradona per la città di Napoli è stato un genio del calcio, un artista del calcio. Maradona è meglio Pelé, si cantava. E siccome io ho una concezione del teatro non solo dell'elite della musica, dell'aristocrazia, dell'eccellenza, ma deve essere anche un teatro del popolo, e Maradona è nel sentimento diffuso del popolo napoletano e oserei dire non solo napoletano. C'è un teatro dell'elite che rifiuta di rendersi popolare, c'è questo distacco? Dunque, questa è l'incultura del sindaco, non è che una cosa... che è popolare, essendo popolare si riscatta perché va al San Carlo. Questa è un'offesa verso Maradona. Cioè Maradona è talmente grande nel suo campo che non ha nessun bisogno di essere saltato trasportandolo. No, semmai Napoli che si aggrappa a Maradona, come diceva lei, questo semmai. Sì, il provincialismo e non avere autostima e quindi... Ma quindi De Magistris non ha, con alcune sue iniziative anche in campo culturale, contribuito a rilanciare la città, si aggrappa anche lui a Maradona? Ma certo, a me non mi pare che ci sia un grande rilancio della città da parte del sindaco o di altri o del presidente della regione. Napoli ha delle carte in regola molto maggiori di quelle che stanno giocando i governanti della città e i governanti della regione in questo momento. Napoli è ancora un fortissimo serbatoio di arte, di musica, di sport, di tutte queste cose. Però ripeto, mischiare le carte, per cui si va a fare lo sport in teatro e l'opera lirica, cioè si poteva trovare tranquillamente, è soltanto una confusione, si poteva trovare un altro posto, eravamo tutti contenti, questa è la sintesi. Senta, le voglio chiedere però anche un altro paio di cose al volo, una riguarda il lavoro, che è poi anche il suo tema, quest'anno si chiude con questi 90.000 posti di lavoro in più che sono stati creati, secondo dati INPS, Ministero del Lavoro, tutti insieme, per una volta tutti i dati convergono, però non sono tanti questi 90.000, molti sono addirittura sono voucher, quindi queste prestazioni occasionali che sommate fanno posti di lavoro. Come siamo messi secondo lei? Dunque, noi abbiamo 23 milioni di occupati che lavorano in media 8 ore al giorno per 40 giorni alla settimana, sì. E abbiamo 4 milioni di disoccupati, quindi che ce ne siano 90.000 in più cambia poco, semplicemente che per assorbirli ci vorrebbero una quindicina d'anni. E intanto, cioè, con questo ritmo ci vorrebbero quanti, certo, anni per assorbirli? Ah, ci vorrebbero almeno una quindicina d'anni praticamente. Ora, bisogna tener conto che il lavoro è una merce che va finendo, perché per fortuna abbiamo imparato a far produrre beni e servizi alle macchine, ai robot e ai computer. Questo è una grande cosa se viene gestita bene. Se invece viene gestita in modo tale che, mancando il lavoro, il padre lavora 10 ore al giorno e il figlio è completamente disoccupato, si creano questi inconvenienti catastrofici che abbiamo di fronte. Le politiche di questi ultimi anni sono politiche proprio di pannicelli caldi, che appunto, dopo aver speso un sacco di miliardi, di milioni di euro, miliardi in questo caso, dopo aver fatto battaglie antisindacali, sì, eccetera, alla fine abbiamo 90.000 posti di lavoro. Cioè, battaglie antisindacali intende l'articolo 18, il Jobs Act? Certo, c'è addirittura un referendum in corso, diciamo. Però... questo. Quindi bisogna tenere conto che per, sì, riassorbire la disoccupazione bisogna puntare a riassorbirla tutta in blocco. Tenga conto che ai tempi del New Deal, sì, in una notte, con un atto firmato da Roosevelt, furono assunti 5 milioni. Beh sì, con un intervento pubblico, lei dice ci vuole l'intervento, certo, pubblico, lo Stato che si fa datore di lavoro. Ma anche questi 90.000 sono per intervento pubblico, e perché ci sono i voucher. Ci sono gli incentivi, assolutamente. Gli incentivi, è tutto pubblico, solo che è fatto male. Soldi spesi ma non spesi bene. Senta, un'ultima cosa riguarda invece la RAI, l'offerta informativa della RAI, non so se ha seguito, proprio in queste ore si è dimesso Carlo Vardelli, era stato chiamato per rilanciare l'offerta informativa, direttore editoriale della RAI, e tra le sue proposte che non sono piaciute al consiglio di amministrazione della RAI c'era quella, a parte di spostare il TG2 a Milano, quella di fare un'unica redazione, accorpare RAI News 24 e le testate regionali, 800 dipendenti, la più grande testata europea, e fare un telegiornale del sud a Napoli, letto da Napoli. Questa cosa però non è piaciuta. Poteva essere un'idea positiva per il sud o no? Assolutamente no. Il sud deve essere incorporato nella cultura mondiale, non è che deve essere ghettizzato, proprio assolutamente. È che la RAI c'ha idee totalmente confuse e spreca miliardi per non educare la gente. Mette in prima serata questi quiz demenziali mentre potrebbe educare. C'è una sola cosa che si salva, a mio avviso, di tutta la RAI, ed è la Radio 3, la terza rete radiofonica, che è veramente una università invisibile. Se un italiano ascoltasse la terza rete radiofonica dalla mattina alla sera, è come se frequentasse una delle più alte, belle e gioiose università. Sì, ma anche un po' Radio 24, dai, facciamo così. No, io stavo dicendo della RAI. Sì, no, ma io stavo tirando l'acqua al mio mulino. Va bene, ho capito, grazie, buona serata, auguri De Masi, a presto. 800 24 00 24, se siete d'accordo con De Masi sulla questione per esempio di Maradona a Napoli al Teatro San Carlo oppure no. Lo facciamo un ascoltatore prima della borsa. Sì, Silvano da Vicenza, buonasera. Sì, buonasera. Vai. A lei. Sì. Termine macaco di cui parlavate, sì, no, me lo diceva anche mio nonno quando ero bambino, non era offensivo a chissà che livello. Comunque, sì, il termine significa stupido, scimmia anche, se si vuole dire. Significa scimmia, significa stupido. C'è un'ascoltatrice che dice è un dileggio molto soft, di solito diretto ai bambini. Ad esempio, da piccolo mi sporcavo mangiando il gelato, mia mamma mi riprendeva dicendo: la prossima volta stai attento, macaco. Sì, sì, ma io le vorrei dire una cosa di più. Mia moglie è giapponese e quando gira per la strada tanti gli dicono: no, le cinese, cinese, cinese. No, allora quello non è razzismo, secondo lei. Perché dicono cinese? No, e che razzismo è, scusi? È tanto razzismo, perché i giapponesi sono lontanamente... Ah, cioè, perché scambiano i cinesi con i giapponesi. Quella è ignoranza, non è razzismo. Grazie, buona serata, borsa, a dopo. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Se tu cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it. Se tu cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Via. Chi è il proprietario? Di adesso ve le spiego, perché non potete essere così. Ma cacchi, avete il cervello per pensare, ragazzi. A Mezzavia, chi è il proprietario di Mezzavia? Sentiamo, Diallo, rispondimi. Chi è? Rispondi. Non lo so, e allora sei doppiamente matato. Ma tu sei, tu sei. Tu sei. Si chiama Adriano Moro. Eccoci qua. Di nuovo buonasera a tutti da Alessio Maurizi. E questa che hai sentito era Sara Felpati, invece, della cooperativa che gestisce il centro Cona di Venezia, che dava dei macachi agli ospiti del centro perché non capivano quello che lei gli stava spiegando. Che vuol dire macaco? Vi abbiamo chiesto, è un'offesa? Scimmia? Sono ragazzi di colore? Oppure è un appellativo in Veneto, bonario? Mi sembra di capire che sia la tesi prevalente. Sebastiano da Treviso, vai. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Sì, mi hanno già preceduto due veneti spiegando appunto che è un modo per dare dello stupidino ai bambini, insomma, quindi non è una grande come offesa. Dire somaro, non fare il somaro, così. Sì, però deriva dal fatto che la scimmia, il macaco, quello vero, non ha questo aspetto così vispo, no? Allora quando uno è distratto, sbaglia, si sporca magari, o gli si dà del macaco, insomma, adesso non lo si sente tanto, forse... in alcune zone un po' più tradizionaliste, ecco, dove si parla tanto ancora il dialetto, si usa di più, ma diciamo che deriva da quello fondamentalmente. Ma ci sono anche altri animali per definire. Ma poteva essere un'offesa in qualche modo? Secondo me no, no, secondo me no, perché lo si impara fin da bambini. Forse siamo stati anche noi macachi con le ultime vicende politiche, insomma, il referendum ci hanno trattato un po' da macachi, nel senso che volevano farci credere in questa grande riforma. Vabbè, questo è un volo pindarico tra un macaco e l'altro. Grazie Sebastiano, sì. buona serata. Riccardo da Milano. Buonasera. Ciao, buonasera. Io mi riferivo alla intervista, al colloquio fatto prima con il sindaco di Livigno. Sì, a proposito dell'ordinanza anti-alco. Esattamente. Sì. Che ne pensi? Allora, sinceramente io conosco molto bene Livigno, ho ben presente quale sia il problema legato a persone, soprattutto dell'Est Europa, che bevono... Ci sono queste esagerazioni? Ci sono, però sinceramente l'ordinanza proposta dal sindaco mi sembra veramente un capolavoro di demagogia per due semplicissime ragioni. La prima è che se parliamo di cittadini dell'Est Europa, di turisti, quindi persone che si fermano per una settimana, 10 giorni, 15, quelli particolarmente benestanti, francamente combinargli una contravvenzione di 150 euro, ma fossero anche 1000 o 2000, vedo molto difficile che queste persone poi possano o vogliano soprattutto pagare la contravvenzione in questione. Cioè dice, si fa la contravvenzione, tanto poi tornano in Polonia o da dove vengono e non pagheranno mai. Esatto, esatto, fanno spallucce e si vanno a fare un cicchetto per consolarsi. Ma però questo non può essere un motivo, no? È una mia congettura, sì. Però ci sta. L'altra obiezione invece? L'altra obiezione in realtà è che semplicemente limitarsi a proibire a qualcuno di scolarsi una bottiglia per strada è come se uno non riesce a farsi passare la febbre e rompe il termometro, perché io quando vado sui rifugi, vado nei rifugi, sì, anche sulle piste con la mia compagna, mi vedo regolarmente proporre dalla ragazzotta di turno, dalla cameriera, dal cameriere, cosa? Una bellissima tavola una bellissima tavola di legno a forma di tavola da snowboard con sopra 12 sciottini di graffe. Ma siamo in due. Vorrei capire, Riccardo, tu che hai detto che conosci bene Livigno, ma che tipo di disagi, di situazioni creano queste persone, spesso turisti? Vero, assolutamente. Fanno casino, vero, aggrediscono, fanno casino, si buttano sulle piste ubriachi, per esempio? Quello, sinceramente, a me verso le 4 di pomeriggio. Perché allora lì non fa differenza tra bere fuori e bere dentro. Lì è un problema di esagerazione. Cioè, è inutile che proibisci di bere fuori se poi uno si ubriaca dentro e poi si butta sulla neve. Esattamente. Il mio pensiero è proprio questo: si vuole risolvere il problema, la strada è un'altra, fai scelte impopolari, poni delle limitazioni alla somministrazione. L'alcol test sulle piste, per esempio, da sci non scirebbe più nessuno. No, beh, oddio, sicuramente scirebbero in meno. No, si ride, ma c'è poco da ridere, perché se qualcuno è veramente ciucco e si butta giù, già succedono spesso degli incidenti, figuriamoci. Le collisioni spesso hanno origine per colpa di certe piante. Va bene, grazie, buona serata, Riccardo. Grazie. Ciao. Andiamo con Dino da Brescia. Buonasera. Buonasera, Dino. Buonasera. Vai. Ormai per la faccenda del macaco è stato detto tutto, qui a Brescia vuol dire poco e niente, non è un'offesa. Però la vera offesa è sempre quella che dicono, sono dei razzisti. Guardi, lei se mi chiede quanti soldi ho in tasca non lo so, ma so chi giurerei chi dà dei razzisti agli altri. Sono qualcuno di tutte le sedie dove c'è il Partito Comunista. Lo dico, un ex comunista. Partito Comunista, fantastico. Ma il Partito Comunista non c'è più, Antonio. Dino. Dove sta il Partito Comunista? Non c'è più il Partito Comunista, ma ci sono i comunisti. E li conosco. Sì. Io firmavo per la Festa dell'Unità, ero uno di loro, ma no, io non ho ricordo... capito. Frequentavi la festa, firmavi per la Festa dell'Unità, non ho capito. Sì, firmavo per fare la Festa dell'Unità, mettevo la mia firma. Casa mia era la stessa. Perché si firmava per fare la Festa dell'Unità? Sì, no, bisognava firmare le licenze, i permessi. Ah. I permessi della questura e comunale. Ma lei era questore, no? Cos'era? No, io dovevo firmare dei documenti per presentare... Cioè lei era un organizzatore della Festa dell'Unità? No, sono mai stato un organizzatore. Casa mia era la sede del Partito Comunista. Però mettevo la firma, ero io perché... Casa sua era la sede del Partito Comunista? Casa mia era la sede del Partito Comunista del paese. Cioè nell'edificio dove abitava lei, sotto c'era la sede del Partito Comunista. Venivano a fare le riunioni in casa mia. Cioè facevano la festa sotto casa sua. L'hanno fatta anche negli anni 50 sotto casa mia. Ma poi facevano le feste nei parchi, ma ero iscritto al Partito Comunista, servivano delle firme per farlo. Le firme, per la raccolta di firme, per sostenere la richiesta avere lo spazio. No, andare in questura, no. C'è una domanda e deve essere firmata. Ah, va bene, esatto, la domanda per poi poter fare la festa di unità. E lei ha firmato. Ecco. Detto allora, questo, oggi cosa c'è che non va col comunista? No, perché continua a dare dei razzisti agli altri, anche all'ultima festa di Fondazione Comunista. Ho dovuto litigare con i comunisti. Che sono ma perché ci va, scusi Dino, non ci vada più se non va d'accordo? No, non sono d'accordo, ma loro sono razzisti che non la pensano come me, ma io posso dire che più razzisti di loro non ce ne sono, perché li conosco bene. Scusi, mi ricordo gli anni 50 ce l'avevano con i zingari, gli anni 60, 70, 80 ancora adesso, con i terroni, ce l'avevano con i neri. Con i terroni ce l'avevano, no, vabbè. Qui al nord, io parlo qui al nord, sì. Sicuramente. No, chiamavano terroni, meridionali, li chiamavano terroni, li dicono ancora adesso che sono... ci vive in mezzo, lo dicono, le mie beghe sono proprio su queste cose qua, però danno i razzisti agli altri. Ormai sono stufo di sentire che chi non la pensa come loro sono razzisti, già dicendo sono razzisti loro. Sì. Vabbè, comunque Macachi abbiamo accertato che non era assolutamente una cosa razzista. È un'offesa data da chi forse sono più razzisti degli altri. Glielo dico perché, come glielo ho detto, non so quanti soldi ho in tasca, ma li conosco. Io parlo di razzisti. Ma secondo lei, Dino, che c'ha questa familiarità con i comunisti, quelli del PD adesso, sono comunisti ancora, anche loro? Sì, guardi, un segretario del PD. Cioè hanno cambiato nome 25 volte, ma sono sempre gli stessi. Sì, sono, e quando dico che io mi vergogno di essere lo Stato e aver fatto. Loro invece sono fieri di esserlo ancora adesso. Pensi quanti sono ipocriti, né? Volevo sentire una quando mi dicono che Berlusconi deve andare in prigione perché faceva l'amore con la giovane. Io ho detto, perché lui non può farlo, tu le facevi. Io non l'ho mai fatto con un ragazzo di 18 anni. Coglione, gli ho detto, guarda che al nostro periodo la maggiore età era 21. È scappato dalla disperazione. Cioè, pronto? Sì, sì, no, la stavo ascoltando, cercando di seguire il filo dei 21 anni. No, parlando dell'offesa del razzista, sì. No, che dico, li conosco bene, danno del razzista, offendono pesantemente, ma... qui non la pensano come loro, poi dicono che Macacchio sono razzista, sono sicuro che sono loro, né? Cioè, lei non mi ha detto che sono di sinistra o di destra, ma sono sicuramente di sinistra. Vabbè, è apparso questo video, in effetti è stato pubblicato a Repubblica.it, che cos'è? È un po' quel mondo lì. Grazie Dino, buona serata. Antonio da Milano. La storia di Dino però era interessante. Vai Antonio. Buonasera. Buonasera. A proposito dell'intervento dell'ordinanza del sindaco di Livigno. Sì. Non è un alcol test per pedoni quello che propone? Non esattamente, perché in realtà lui ha detto si può anche non essere ubriachi, basta avere la bottiglia di alcol e già si subisce la sanzione. Ok, la mia ovviamente è una provocazione, sì, questa, sì. No? Però questo, come ha sottolineato lei anche durante l'intervento, durante il suo intervento, è un voler spingere i turisti praticamente presso i pub oppure e farli allontanare dai supermercati sostanzialmente, no? Oppure da un negozio che vende bevande al dettaglio. Sì. Non trova? Sì, sì, sì, questa gliel'abbiamo chiesta. Lui dice che non è così, che non è una questione di... Cioè, se uno vuol comprarsi da bere nei supermercati lo può fare, però poi va a berselo in camera, nella camera d'albergo, non all'aperto. E anche secondo me potrebbe essere un appoggio quasi quelli che gestiscono i locali della zona, no? A dire dovete bere all'interno e quindi consumare all'interno dei locali. Questo è possibile che sia una forma di questo, però tutto parte dai problemi che questa gente crea. Io non so lei Antonio se frequenta Livigno, però altri che lo frequentano dicono che in effetti c'è gente che esagera, che beve, che diventa molesta, che va in giro sulle piste, ubriaca, che spacca le bottiglie. Lei ci va a Livigno, Antonio? No, io non ci vado a Livigno, perché né io né lei possiamo tanto saperne qualcosa. No, però l'ascoltatore di prima è testimone oculare della cosa, sì, no? Sì, sì, ha sì. Parlato della situazione di Livigno e non ha descritto così catastrofica. No, non catastrofica, però ha detto che ci sono questi eccessi, che in qualche caso possono anche dare fastidio. Poi il sindaco ha detto che la notte vanno a raccogliere i cocci e anche la gente... in giro, quindi o dice delle balle, anche lui delle bufale inventa, oppure deve essere vero. Silvano da Verona, buonasera. Buonasera. Prego. Allora, guardi, la cosa è molto più facile di così, perché la gente perde la memoria e non conosce. Macaco, io ho 64 anni, sono un medico di Verona appassionato della Prima Guerra Mondiale. Macaco, lo hanno detto a me, a Caporetto. Perché gliel'hanno detto? Perché ero italiano, perché macaco era l'offesa, intendendo stupido italiano, sì, che gli abitanti di quella zona durante la Prima Guerra Mondiale, era un epiteto con cui offendevano sostanzialmente i soldati italiani. Macaco dicevano. Macaco, italianski macaco. A lei l'hanno detto però dopo la Prima Guerra Mondiale, perché a 64. Sono appassionato della Prima Guerra Mondiale e sono andato con un mio grande amico, vostro collega della RAI a Caporetto, ah, e siamo entrati in un bar e ho detto italianski macacchi, e ci siamo chiesti perché, e abbiamo, dopo essendo appassionati però, della prima però guerra quel mondiale, macaco lì era un'offesa, eh beh certo, stupido volevo dire, italiano stupido, sempre scimmiottando la scimmia, altro, cioè scemo erano come la scimmia, con gli austro-ungarici, sì, che per loro erano quelli, no, però vede Silva, è bella questa ricostruzione perché ci aiuta a capire, però il punto è che allora era un'offesa nei confronti degli italiani, oggi se si usa all'interno, lei chiama da Verona quindi me lo confermerà, tra una persona e l'altra, senza volersi offendere, ma è un modo di dire, non fare lo stupidotto. Sì, certo, quindi stupido, comunque vuol dire stupido, vuol dire ignorantello, vuol dire meno intelligente di noi. Allora adesso, dopo dire razzista, c'era la guerra lì, vero? Si stavano sparando addosso. Però dopo tanti anni, noi che andavamo là, appassionati di storia, siamo andati in cerca dei cimiteri di guerra a Caporetto, a Kobarid si chiama adesso, e dentro in un bar c'erano dei vecchi che hanno detto italianschi macacchi. Ma italianschi a Caporetto, ma che lingua parlano, scusi? Tedesco. Era Slovenia, allora c'era l'Austro-Ungheria, e quindi era un misto tra sloveno, russo, ecco, esatto. Va bene, Silvano, grazie. Abbiamo fatto un passo in più nell'etimologia addirittura della offesa, appellativo macachi in Veneto. Ti chiedo mio amor. Sveglia, suona, buco in pancia, scendo, moca, radio, colpo. Salgo, denti, doccia, barba, leggo l'iPhone sulla tazza. Vendi, compra, Dow Jones, Nasdaq, paga, tassa, broker, banca. Tanta gloria, quanta ansia, sacco, basta, sbatta. Per non vedere il mio nemico basta chiudere il Mac. Le sue tipe di cognome fanno tutte JPEG. Fumo e leggo i tuoi commenti, sì però per divertirmi, ossessivo come un nerd. I russi coi miliardi fanno shopping da trussardi. Una volta erano zar, sono diventati zarri. Sono tutti presi male dall'invidia verso gli altri. Serve mantenersi calmi con il metodo Bob Marley. Allora, intanto grande successo per Dino da Brescia, perché altri ascoltatori scrivono che vorrebbero sentirlo tutte le sere. E in effetti sarebbe da richiamare, perché ha delle storie da raccontare. Allora, dall'ordinanza anti-alcol di Livigno qua stiamo passando su un terreno simile ma completamente diverso. Parliamo di terapie a base di cannabis. È una cosa che si può fare già in tante regioni d'Italia. Toscana, Veneto, Puglia sono tra le prime in prima fila. Una novità voluta da molti ammalati, da molti medici che parlano di queste terapie molto positive. La novità è che adesso si può somministrare anche cannabis prodotta dall'Italia, non più comprata dall'Olanda ad alto a caro prezzo, ma proprio prodotta dall'Italia. Noi abbiamo forse il primo farmacista in Italia che somministra cannabis, non so se già quella proprio prodotta in Italia oppure no. Intanto lo salutiamo, Luca Guizzon, buonasera Luca. Salve, buonasera a voi, buonasera. È titolare no, della farmacia La Campedella. Sono il figlio del titolare. Che è male, sono responsabile del laboratorio Galenica. La Campedello di Vicenza, la farmacia. Allora, che tipo di cannabis, in quale formato, adesso ce lo spiegherai, state somministrando già quella italiana o no? O ancora quella comprata dall'Olanda per ora? No, adesso attualmente noi somministriamo quella importata dall'Olanda, okay. Quella italiana ci arriverà nei primi giorni della settimana prossima adesso. Ecco, sta arrivando. Sta arrivando. Cominciamo, andiamo per ordine. Chi sono i pazienti che vengono da voi? Allora, i pazienti che vengono da noi sono, diciamo, una vasta gamma di pazienti, tutti quanti però spesso caratterizzati da delle sindrome antalgiche, quindi dolori di varia natura, sono quelli più come dire, più frequenti, dopo ci sono anche delle spasticità. Sono sempre comunque pazienti che, come dire, hanno provato già altre terapie, non si sono trovati bene per mancanza di effetto oppure per troppi effetti collaterali, e a quel punto lì il dottore decide di provare con la cannabis, dove diciamo ci siano degli studi scientifici che ne dimostrano l'efficacia, certo, per provare a migliorare la qualità della vita del paziente. Quindi antidolorifici, però io leggo anche ipotensivi, cioè farmaci per la pressione? Beh, oddio, questo qua nel non glaucoma è... resistente, però, ecco, quindi per l'occhio. Esatto. Per l'occhio. Sì, per l'occhio, questo qua è un'indicazione anche dell'ultimo decreto ministeriale. Diciamo, in alcuni casi dove appunto i colliri non riescono più a controllare efficacemente la pressione dell'occhio, può anche essere usata la cannabis. Ok, stimolante dell'appetito in anoressia e altre malattie di questo tipo? Assolutamente, in quel caso lì, nei casi anche di AIDS, dove c'è la paralisi dell'appetito, nel caso anche di chemioterapie, dove il trattamento farmacologico va a portare via la fame ai pazienti, allora per aiutarli anche da questo punto di vista si può somministrare la cannabis. Nel paziente oncologico poi la cannabis serve anche in certi casi per ridurre la nausea che i trattamenti possono procurare. Quindi è vero che la cannabis fa venire fame? Era una vecchia leggenda metropolitana che sì, si diceva, diciamo, la fame chimica, è vero? Esattamente, sì, la fame chimica, esatto, anche perché diciamo non è ancora ben chiaro esattamente come stimoli l'appetito la cannabis. Però succede, però e questo c'è. Basta. E questo L'ultima cosa è riduzione dei movimenti involontari per la sindrome di Gilles de Tourette. Io ho visto anche un video, non so se adesso vanno di moda le bufale, se era una bufala o se era vero, ma era molto evidente come poteva migliorare la capacità di impugnare per esempio un cucchiaio da parte di un paziente di questa sindrome dopo aver assunto cannabis. Sì, diciamo che in tutte le specificità, quindi sindrome di Gilles de Tourette è una, diciamo, tra le più rinomate, più anche citate nei documenti ufficiali, però anche, voglio dire, le varie specificità da sclerosi, da lesioni midollari, in tutti questi casi vediamo che i dottori prescrivono e i pazienti si trovano bene, francamente, a utilizzare la cannabis, trovano giovamento nei loro sintomi. Però, ecco, di fronte a tutto questo, ci sono degli effetti collaterali che indesiderati che possono sopraggiungere? Ah beh, assolutamente, cioè, stiamo parlando comunque di un medicinale importante, un medicinale che comunque... Perché, scusa, faccio questa premessa, perché si parla di queste terapie? Perché possono essere migliorative rispetto ad altre terapie che magari sono più tossiche, che possono avere altri gravi effetti collaterali, e quindi si cerca di capire qual è il miglioramento. Quindi abbiamo capito la parte buona, ma la parte negativa qual è? La parte negativa è che è assurdo, per l'effetto paradosso proprio può provocare nausea, ad esempio, invece che farla curare, può portare comunque stati di confusione mentale anche. Noti stati di confusione mentale, cioè qualcuno che proprio li ricerca volutamente. Sì, ecco, in questo caso invece, ecco, appunto, questa è una delle grandi differenze, perché in questo caso la confusione mentale per l'uso terapeutico è un effetto collaterale da evitare. Quindi, nel caso da evitare. Però quindi mi faccia capire, c'è chi si fa le canne proprio per andare in confusione e rilassarsi la sera magari a caso, e chi magari la prende come una terapia. In questo caso l'effetto collaterale del farmaco c'è oppure viene ridotto in qualche modo? Perché uno potrebbe anche dire, vabbè, già che ci sono, che mi curo, perché no lasciarsi andare anche a questi effetti? O sono due cose distinte? No, sono due cose distinte, anche perché normalmente le persone che usano poi la cannabis la usano per poter avere una vita attiva normale per quanto possibile, per controllare i loro sintomi, quindi non hanno ricerca durante la giornata di quel tipo di cosa là, sbaglionati. Loro sono proprio due mondi completamente diversi, due mondi completamente diversi per qualità, per effetti poi che si ricercano, insomma. E quando adesso quanto costa il farmaco? Prendiamone uno a caso, decida lei, Luca. Diciamo che un farmaco importato dall'Olanda adesso il costo è uguale per tutte le quattro varietà che ci sono, viene 24 euro al grammo in media, dopo qualche piccola variazione. Il farmaco, cioè la materia prima, che poi che sono le infiorescenze della pianta femminile di cannabis italiane, costerà 15 euro al grammo, quindi in primo prezzo, quindi c'è un 30% in meno. Non la metà, ma insomma un 40% in meno, 35%. Ecco, 30-35, insomma, più o meno dopo. Al momento però la può produrre soltanto il laboratorio che si trova a Firenze, credo, gestito in tutta segretezza e sicurezza da un nucleo militare, credo proprio, no? Sì, diciamo che è lo stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze. Sì. Ora, la segretezza, non so quanto ci sia, francamente sicuramente è stata... No, sicurezza più che segretezza. Ah, ok, no, infatti no, avevo detto segretezza. Non no, mi sicurezza perché essendo una materia sensibile potrebbe venire, non è che ovviamente si può coltivare all'aria aperta. In realtà ci sono dei posti in Italia, tipo in Puglia, dove si coltiva già l'altra canapa, quella con basso THC, che chiedono, dicono, perché non possiamo farlo anche noi? Potrebbe essere... Sì, beh, guardi, però conti che appunto lo stabilimento chimico farmaceutico di Firenze è anni che sta studiando e mettendo appunto tutto il processo, perché appunto sì, è terapeutica, quindi deve essere certo, è un medicinale. No, io parlavo solo della esatto, materia prima. Comunque è sì, chiaro, no, è che appunto, ma la materia prima è il medicinale. Nel senso, il medicinale è la materia prima, che dopo io in farmacia divido in cartine, ma è l'infiorescenza della pianta. Ma quindi io come viene somministrata? Mi faccio capire in che modo, infusioni, alimenti? No, diciamo la posologia e i metodi di somministrazione terapeutici sono essenzialmente, almeno quello che vedo io, due, cioè la decozione, quindi un infuso prolungato di circa 20 minuti, oppure la vaporizzazione, quindi mediante apposite, chiamiamole sigarette elettroniche per farci capire, che vanno a riscaldare queste infiorescenze, queste pezzi di fiore di cannabis che attivano il principio attivo e poi uno lo inala. Qui però mi viene da pensare che gli effetti siano in tutto e per tutto simili a quelli di farsi una canna. No. Perché qua lei intanto la dose terapeutica è molto più bassa rispetto al cannone, diciamo, ok? Prima cosa. Seconda cosa, lei conti che non c'è la combustione in questo caso, quindi sia solamente l'attivazione del principio attivo. Ok, mentre quando lei fuma il classico cannone ha tutta la serie di sostanze nocive che vengono inalate, qua inala invece solamente sì, compreso tutto il tabacco, eccetera. Sì, esatto, e a dosi veramente, cioè sulla vaporizzazione si va a dosi veramente molto basse, perché l'assunzione per via polmonare è un'ottima via di soluzione per i principi attivi della cannabis. Ok, e quindi parliamo veramente di frazioni di milligrammi. 10, 15, 20 milligrammi, veramente pochissima. Un'ultima cosa le voglio chiedere, sì, è questa: non so se si è fatto una sua idea sul tema più largo della depenalizzazione. C'è una proposta di legge in Parlamento per questo, bipartisan, sono, diciamo, da tutte le forze politiche ci sono depenalizzatori, ci sono anche i contrari, ma insomma sembra che ci sia quasi una maggioranza in Parlamento per depenalizzare il consumo e in qualche caso anche la produzione di piccole quantità. Lei c'ha un'idea? Che cosa ne pensa? No, non ho un'idea particolare. L'unica cosa che mi viene da dire è, come dire, da vedere come viene poi formulata questa legge. Quello sia, prima di dare una conclusione, almeno assolutamente personale, vorrei, come dire, vedere qual è la carta canta, vedremo, va bene. Esattamente. Grazie, va bene, per ora, buona serata Luca Guizzon della farmacia Le Campanello di Vicenza, la prima, una delle prime in Italia a vendere questo tipo di prodotti, in particolare quelli prodotti in Italia, tra pochi giorni. Andiamo con gli ultimi ascoltatori velocissimamente, che siamo in chiusura. Aldo da Napoli, vai. Buonasera, salve. Volevo soltanto fare una piccola osservazione riguardo al discorso prima su Maradona e San Carlo, eccetera. Sì. È una cosa che purtroppo accade spesso, che si focalizza sempre su quello che accade a Napoli, diciamo nel peggio che accade, come se fosse una sorta di... No, beh, ma però perché il peggio? Non è mica, cioè, uno spettacolo con Maradona per celebrare lo scudetto, non è mica no, il peggio. No, io poi lo amo tantissimo, sono indipendentista, quindi si figuri. Il problema è che sarebbe stato carino anche parlare del fatto che abbiamo avuto un picco incredibile di turisti, sarebbe carino fare tutto quello che va bene. Io Guarda, se sei un ascoltatore di Radio 24, sai che si può fare nel formato del sabato e della domenica mattina. Abbiamo parlato con De Magistris del calo dei reati, per esempio, a Napoli. Sì, buona sì, notizia dell'anno, certo. Perché, ripeto, purtroppo io capisco che l'Italia deve comunque mandare un messaggio che non deve essere... Ma tu sei... Che ne pensi di questo spettacolo di Maradona al San Carlo? Ma secondo me può essere una cosa carina, goliardica, carina, non vedo... Quanto costano i biglietti, lo sai? Ne hai un'idea? No, questo la dico, in realtà non lo so, non ho approfondito perché non ho la possibilità di andarci per questioni lavorative, quindi parecchio, non mi sono interessato nello specifico. Va bene, però grazie, ripeto, devo chiudere, Aldo, grazie mille, buona serata. Tanto, è buona tutto serata, anche per questa sera. Un ringraziamento a Miriam Lucchetti, Matteo Ramelli, Claudia Schiattone, Pietro Lacorte in regia. Ci risentiamo domani, ciao, buona serata da Alessio Maurizio, ciao.